Allora, comincio dicendovi, vi ricordate la classe che abbiamo fatto sulle beghine, Margherita Porete, Matilde di Magdeburgo, tutto quanto ambientato nel 1200 nelle Fiandre, no? Quella tra 1200 e 1300, l'epoca, diciamo, clou delle beghine. Queste beghine che erano anche delle donne colte, oltre che delle donne autonome e indipendenti, che vivevano autonomamente del loro lavoro tutte insieme. La zona di riferimento è il nord Europa. Nel 1600 poi c'è stato un calo, perché ci sono state delle denunce, perché c'è stato il rogo di Margherita Porete, eccetera, eccetera. Però nel 1600, che è l'epoca nella quale ci collochiamo adesso, mi si sente bene? Spero che non dia fastidio il rumore del traffico. Nel 1600 ci fu un rinverdimento, diciamo, una recrudescenza. Questo movimento, questi béguinage, ripresero vigore. Perché anche il 1600 fu comunque un'epoca di grandi intellettuali. Se pensiamo che Elena Corner, che è la madrina della nostra scuola delle donne, la madrina ufficiale, nacque proprio alla metà del 1600 e fu la prima donna europea laureata, dottorata, a Venezia. Quindi è stato sicuramente un secolo di grande cultura. E io così, questo non l'ho trovato da nessuna parte, ma così istintivamente mi viene da pensare che queste donne di cui parleremo stasera in qualche modo siano legate in frequenza con i beguinage, con la qualità del beguinaggio, cioè di queste donne che dedicavano parte della loro vita di donne autonome indipendenti allo studio, perché tutte e tre le donne di cui parleremo stasera poi sono donne indipendenti, sono donne che hanno scelto di non sposarsi per poter studiare e per poter condurre la loro vita in maniera autonoma. E sono tutte e tre, tra l'altro, da collocare nel nord dell'Europa, per cui una nel Palatinato, ossia la Boemia, che stiamo parlando del nord della Germania, credo al confine con l'Ungheria, non ho verificato, ma credo che sia così, un'altra la Svezia e un'altra Utrecht, per cui Olanda, Paesi Bassi, quindi la zona è quella. La prima di cui vi voglio parlare, Elisabeth di Boemia, era una Simmern von Palland, cioè era la figlia maggiore di Federico V, elettore palatino, di Elisabetta Stuart, che era figlia di Re Giacomo d'Inghilterra, quindi era una donna di sangue purissimo. Suo padre fu re di Boemia, ma perse il trono in poco tempo, per motivi che comunque non ci interessano e che non ho indagato. Sta di fatto che Elisabetta trascorse la propria infanzia sotto la guida e le cure della nonna paterna, che era una Nassau, Luisa Giuliana di Nassau, nei Paesi Bassi. La nonna Nassau era una donna che viveva molto la carità e la pietà, erano luterani, no? Quindi erano molto dediti alle opere caritatevoli, alla compassione. E questa influenza della nonna Nassau su Elisabeth si farà sentire poi più avanti negli anni, quando Elisabeth diventerà badessa e dovrà decidere se accogliere o meno dei fuoriusciti, insomma, diciamo, delle congregazioni che erano in odore di eresia. Allora, Elisabeth fin da piccola fu istruita, sono tutte donne di una cultura, cioè io mi reputo una donna colta, con una cultura medio-alta, cioè non faccio la falsa modestia, ma sono 50 anni che studio, quindi qualcosa sarà servito, ma di fronte all'elenco di quello che sapevano queste donne, veramente mi sento una nullità. Dunque, cominciamo con Elisabetta di Boemia, greco, latino, francese, inglese, tedesco. Logica, matematica, politica, filosofia, scienze, arti, letteratura, pittura, musica e danza. Tanto che i suoi fratelli la soprannominarono la Grec, per elogiare affettuosamente la grande cultura di questa donna. Ma il grande amore, la grande passione di Elisabeth era la filosofia. Io ci sento Ipazia, qui ce la sento tanto, cioè l'energia di Ipazia in queste donne è molto presente, molto forte, perché anche quelle che invece si direzionarono verso la teologia Infine era la filosofia che cercavano. Forse non erano coscienti, ma in realtà cercavano la filosofia. Pensando di cercare Dio, cercavano una figura di un Dio che non aveva molta attinenza con il Dio cristiano-cattolico, ma era più una forma metafisica, un primo motore immobile, una causa prima incausata, una forza generatrice che noi oggi chiamiamo Dea. Quindi Elisabetta poi più avanti negli anni raggiunse i genitori all'Aia, che nel frattempo avevano lasciato il trono, avevano dovuto scappare, e visse i primi 30 anni della sua vita, in una corte selezionata composta da eruditi e nobili di cui fu circondata fino a che decise di cambiare vita. Considerò in quel periodo la sua famiglia considerò l'idea di sposarla con Ladislao IV di Polonia, ma lei rifiutò con la scusa che lui era protestante. Scusate, con la scusa che lui era cattolico e lei era protestante, ma secondo me in realtà lo fece per motivi per poter rimanere libera. E questo fatto poi lo rivediamo con Cristina di Svezia, che anche lei rifiutò di sposarsi, e anche Anna Maria von Schurman, che vedremo tra poco. Ecco. E qui comincia l'avventura, perché studiando e preparando la lezione leggo: a 21 anni Elisabetta iniziò una corrispondenza con l'erudita olandese Anna Maria van Schurman. Ovviamente non potevo rimanere insensibile, c'era un'altra antenata che si stava chiaramente manifestando, e quindi mi è toccato inserirla e andare a fare una ricerca. Non è ben specificato su che cosa disquisissero queste due donne per lettera, perché chiaramente allora erano le lettere quelle attraverso le quali l'erudita e gli eruditi si scambiavano le loro opinioni, no? Molte di queste lettere, molte sono preziosissime, sono state pubblicate. Pensiamo per esempio alle lettere di Rosa Luxemburg, a quelle di Anna Kuliscioff, cioè le lettere sono poi diventate dei veri e propri documenti, testimonianze non soltanto della loro vita privata, ma anche della loro filosofia, della loro politica, delle loro scelte comunque. Non soltanto private, ma anche pubbliche. Quindi sono andata a vedermi questa Anna Maria van Schurman, che aveva 11 anni più di Elisabeth, e quindi quando iniziarono il carteggio Anna Maria ne aveva 32, cioè 11 più di Elisabetta. Questa Anna Maria van Schurman è considerata una delle donne più colte ed erudite dell'Europa del 1600. Tanto che i suoi contemporanei l'avevano soprannominata la Minerva olandese o anche la stella di Utrecht. Lei, attenzione, tenetevi forte, perché lei dominava l'algebra, la geometria, l'astronomia, si dedicava alla pittura, alla musica, alla letteratura, alla scultura, ma prima di tutto considerava se stessa una teologa, come Elena Corner. Elena Corner, se avete riascoltato di recente la sua descrizione che ho pubblicato in chat, aveva chiesto di poter essere dottorata in teologia e le fu rifiutato perché il vescovo di Padova assolutamente non permise che una donna potesse parlare di un argomento, disquisire di un argomento considerato strettamente maschile, per cui ripiegarono sulla filosofia. Ma Elena voleva discutere di teologia, e anche questa Anna Maria, la stessa cosa. Dopo vedremo quello che secondo me cercavano queste donne. Sta di fatto che Anna Maria, stiamo parlando di Anna Maria adesso, cioè della donna con la quale Elisabeth di Boemia ebbe un ricco carteggio. Anna Maria a 4 anni sapeva leggere. A 13 parlava correntemente latino e greco e arrivò a parlare 10 lingue, banalmente tedesco, olandese, inglese, francese, italiano, castigliano, oltre a ebraico, aramaico, arabo, siriaco ed etiope. E scrisse così, tra una merenda e un picnic, la grammatica etiope. Cioè, io sono rimasta senza parole, ho detto: caspita, ma veramente esistevano delle donne? Io non so se oggi ci siano ancora delle donne così tanto colte, ma queste erano veramente delle persone di straordinarie, da cui veramente trarre medicina. e ispirazione. Quando aveva 29 anni, Anna Maria, fu fondata la prima università di Utrecht, naturalmente proibita alle donne, va da sé, che non era permesso a nessuna donna accedere. Ma siccome il rettore dell'università conosceva la fama, aveva sentito parlare di Anna Maria e ne conosceva il valore, le permise di poter ascoltare le lezioni stando nascosta dentro una nicchia, quindi rendendosi invisibile, una nicchia coperta da una tenda. Quindi lei poté ascoltare le lezioni, ovviamente senza interagire, senza dibattere. Questo ci ricorda un po' Assiotea e ci ricorda l'Accademia Platonica, quando le donne potevano ascoltare il dibattere dei filosofi senza poter intervenire, potevano soltanto ascoltare in silenzio, perché non erano considerati all'altezza di disquisire. Quindi Assiotea, che sfidò invece, no, l'Accademia di Platone, parlando quando non, in realtà non le sarebbe stato consentito. Allora, una cosa interessante di tutte queste tre donne è che in tutte e tre interagirono con Cartesio. Cartesio, che sicuramente avete sentito nominare, ve la faccio molto semplice perché non mi interessa indagare Cartesio, è quello del famoso Cogito Ergo Sum, ed è considerato insieme ad Aristotele praticamente il simbolo vivente della filosofia. Nel 1600 sicuramente Cartesio era il personaggio più di spicco del mondo della cultura, e queste tre donne tutte e tre ebbero a che fare con lui. La Schurman, così come Elizabeth, entrambe ebbero un carteggio con Cartesio. Scusatemi il bisticcio di parole, carteggio con Cartesio. Perché cosa succede? Che entrambe queste donne non sono d'accordo sul cogito ergo sum, cioè non sono d'accordo sul fatto che una sostanza immateriale come la mente possa interferire, possa interagire con una sostanza materiale come il corpo. Elisabeth di Boemia in particolare, che in quel momento era molto attratta e studiava le scienze naturali, e era molto attratta anche dallo studio delle malattie, delle cure delle malattie, dà molta importanza al corpo, e così pure Anna Maria, la sua amica Anna Maria. E secondo me è proprio di questo che hanno dibattuto per lettera le due donne, perché entrambe arrivano a rovesciare il cogito ergo sum cartesiano e lo fanno diventare un sum ergo cogito, cioè esisto, ho un corpo e quindi posso pensare. Il corpo è fondamentale nell'azione del pensiero, e proprio perché io ho un corpo e questo corpo è fatto in questo modo, io penso come penso. Se il mio corpo fosse diverso, io penserei in modo diverso. Quindi due donne coraggiosissime che hanno questo ardire, no? Di controbattere, addirittura di rovesciare l'assunto filosofico per eccellenza, cioè cogito ergo sum, è come dire itemisa est, cioè è fondamento, è uno dei fondamenti stessi della filosofia. Eppure entrambe queste donne danno spazio al corpo come fondamento nel processo del pensiero. A 52 anni, quindi io me le immagino proprio scriversi lettere gasatissime, queste due che si erano trovate d'accordo su come smontare il più grosso, cioè io in questo momento ho un momento di godimento puro, su come smontare assolutamente il teorema fondamentale del colosso di tutti i tempi della filosofia. Solo due donne potevano effettivamente ricollocare il corpo nella sua giusta dimensione, il che non significa che fossero materialiste, perché ricordiamo che di una la materia preferita era la filosofia e dell'altra era la teologia, quindi di certo non si può dire che fossero materialiste, ma erano consapevoli, essendo donne, che il corpo ha una sua importanza, che il corpo, il pensiero da solo non può esistere, il pensiero ha bisogno di un corpo per essere focalizzato, per essere compreso, per essere manifestato. E io credo che su questo siamo assolutamente tutte d'accordo, cioè è tipicamente, secondo me, un approccio patriarcale quello di estrarre il processo mentale, il processo del pensiero dal corpo, perché ha a che fare proprio con la tendenza, il dogma patriarcale di elevare tutto ciò che è pensiero verso l'alto e di demonizzare tutto ciò che è fisico verso il basso. Quindi dividere e separare il pensiero dal corpo serviva a rendere il pensiero tipicamente maschile, tra virgolette, cioè l'attività del pensare era considerata tipicamente maschile, per questo le donne non erano ammesse nelle scuole e alle disquisizioni filosofiche, come qualcosa di perfetto, di puro, che poteva esistere in sé, mentre il corpo era secondario, poteva anche non esistere, era il prodotto del mio pensiero. Il che, comunque, da una parte può anche avere, può essere anche corretto in qualche modo, perché se noi pensiamo all'influenza che può avere il pensiero creativo, no? Cioè non è tutto sbagliato il fatto che il pensiero possa avere un'influenza sul corpo, sulle azioni, sulla realtà, su come noi creiamo la realtà. Ma questo non credo che fosse l'intento di Cartesio, perché Cartesio era un mentale puro ed era un cattolico praticante, il che significa che era stato cresciuto nel dogma che le donne valgono meno e non sono degne di attenzione, nonostante lui comunque abbia si sia scritto con queste due, specialmente con Elisabeth di Boemia. E quando Elisabeth gli chiede spiegazioni, gli chiede conto di come è possibile che qualcosa di immateriale come il pensiero intervenga su qualcosa di materiale come il corpo, lui risponde in maniera evasiva, cioè non sa che pesci pigliare, e le risponde addirittura che forse si crea addirittura una terza sostanza che è il prodotto dell'unione o dell'influenza del pensiero sul corpo. Riuscite a seguire o vado troppo veloce? Guardate, sto semplificando veramente, la sto facendo in maniera maccheronica. Probabilmente un docente di filosofia inorridirebbe a sentirmi parlare così, ma a me non me ne frega niente, mi interessa che ci capiamo e quindi che parliamo della filosofia in modo femminile, quindi che sia comprensibile a tutti, al popolo, grazie, e non soltanto ai dotti che stanno negli scranni. Ok. A 52 anni la Schurman, Anna Maria van Schurman, lascia Utrecht e va a vivere con un pastore riformato francese che si chiama Jean de Labadie. E qui si è fatta sentire Louisa May Alcott, perché praticamente viene attratta Anna Maria, la donna con cui Elisabeth di Boemia aveva il carteggio, si fece attrarre dal grande sogno di questo signor Labadie e dei suoi seguaci di ricreare la vita comune dei primi cristiani a Gerusalemme, una sorta di comunità spirituale che forse può far pensare anche oddio, in questo momento mi sfugge la parola, aiutare agli esseni. Quindi lei lasciò la sua città, lasciò la sua famiglia e andò a vivere in questa sorta di comunità con questo gruppo, con questi labadisti si chiamano, e restò con loro fino a 71 anni quando lasciò il corpo, rinunciando addirittura, cioè in quel momento lei fece, stiamo parlando di Anna Maria, fece una scelta veramente penosa per lei, perché questo gruppo di cristiani imponeva, scusate, i pastori riformati, quindi non erano cristiani, in realtà era una setta, una confraternita protestante, pretendevano di studiare solo le sacre scritture e non volevano che si studiasse altro. Quindi Anna Maria, con tutta la sua cultura, erudizione, accettò, suo malgrado, di lasciar perdere tutti gli autori classici e tutti gli studi secolari che aveva compiuto fino a quel momento. Lo accettò di buon grado e anche dopo la morte di Labadie lei rimase comunque nel nucleo dirigente dei labadisti fino a che lasciò il corpo. Questa era Anna Maria van Schurman, che non era previsto, di cui non era previsto che vi parlassi, ma non potevo assolutamente lasciarcela scappare. Questa meravigliosa antenata deve stare con noi nel cerchio, nel nostro tempio. E ora possiamo tornare ad Elisabeth. Allora, Elisabeth e Cartesio ebbero un carteggio densissimo, addirittura è stato pubblicato il carteggio tra Elisabeth di Boemia e Cartesio, e Cartesio le dedicò uno dei suoi libri, quello che parlava delle scienze naturali. Sembra che Elisabetta addirittura abbia chiesto a Cartesio di divenire il suo insegnante di filosofia e di morale. E lui accettò, rimase l'insegnante di Elisabeth fino a che non fu invitato a Stoccolma alla corte di Cristina. Quindi Cartesio praticamente è un po' il punto di contatto tra queste tre donne. Cartesio poi si trasferì a Stoccolma alla corte di Cristina finché Cristina di Svezia rimase regina, ma morì 10 mesi dopo, evidentemente il clima svedese non gli faceva bene. Morì di una roba tipo reumatismo, una cosa così. Non ho indagato. Dagli scritti, dalle lettere che Elisabetta mandò a Cartesio e di cui oggi abbiamo le copie, risulta il grande acume e la grande capacità di disquisizione filosofica di questa donna, una capacità realmente non comune. Io credo che queste donne che avevano un così forte impulso per lo studio e per la filosofia, nella teologia cercassero, come ho detto prima, lo studio di un'origine, di una matrice, ecco, di un'origine prima della vita. Non cercavano tanto un concetto metafisico, quanto proprio un concetto più ampio. Secondo me questo, però io non l'ho trovato in nessun libro, ma tanto tutto quello che io vi dico, la maggior parte delle cose che vi dico sono secondo me, perché questa è la scuola delle donne. La mia sensazione è che cercassero proprio di mescolare la fisica con le scienze naturali per trovare un'origine della vita che fosse biologica, ma che fosse anche spirituale, e credevano di trovarla nella teologia. Poi Elena Corner si fece oblata benedettina, quindi aveva più un'impostazione religiosa, diciamo. Ma è anche vero che all'epoca sappiamo bene che le donne che volevano non sposarsi, specialmente le donne sotto l'influenza cattolica, non avevano altra scelta che entrare nel clero. E quindi queste donne del nord poterono continuare a studiare senza sposarsi. Quelle del sud Europa, come Elena Corner, per evitare il matrimonio dovevano per forza entrare in qualche modo nella chiesa. Elena Corner poi continuò a vivere in casa con i genitori perché si fece oblata, quindi portava lo scapolare sotto i vestiti. A tutti gli effetti era benedettina, viveva in castità e quindi riuscì ad evitare il matrimonio. Elisabeth di Boemia si interrogò moltissimo anche sulla questione morale, sulla questione delle virtù, e chiese per lettera a Cartesio in che modo il pensiero influenza o è influenzato dalla virtù e dalla morale, perché secondo Elisabeth era importante anche che tipo di pensieri produciamo, in che modo questi interferiscono e pesano sulla comunità che da noi dipende. E ovviamente questo lei lo pensava e lo ricercava perché era figlia di re, perché studiava la politica e perché a 42 anni entrò in un convento luterano a Hertford in Germania e dopo 7 anni divenne badessa. Quindi lei aveva anche delle responsabilità, tra virgolette, politiche, economiche. Lei gestiva una comunità, era un convento luterano, ma sappiamo che a quell'epoca le comunità religiose erano delle piccole aziende e le badesse avevano sotto di sé non soltanto le monache, ma dovevano gestire ettari di terreno, dovevano gestire contadini e contadine, avevano animali, avevano molto spesso avevano le piante, avevano il mulino, avevano, se vi ricordate, il De Garda, nella storia di De Garda è scritto chiaramente ed è detto chiaramente che quando andò, che poté andare a Bingen a creare il suo monastero perché la mamma della Richardis von Stade le regalò terra, le regalò il mulino, le regalò, insomma, i monasteri dovevano stare in piedi con le loro gambe. Quindi la badessa era a tutti gli effetti un capitano di azienda e doveva far marciare le cose. E questa Elisabetta governò molto bene la sua comunità, tant'è vero che negli anni in cui lei rimase badessa prosperò la comunità. Lei governò in maniera umile, semplice, non chiese mai riconoscimenti, e qui entra l'educazione che ricevette dalla nonna Giuliana di Nassau, cioè semplicemente Elisabetta di Boemia faceva il suo dovere volentieri, con piacere, il suo dovere che lei compiva con piacere, e qui forse è davvero possibile compiere il dovere con piacere, magari ci sono delle volte in cui le due cose si sposano, per il bene comune, no? Il suo piacere era far funzionare al meglio la comunità e che tutti stessero bene e fossero contenti. E lei diede addirittura rifugio alle sette religiose protestanti emarginate che venivano considerate dall'ortodossia protestante delle confraternite eretiche, come i quaccheri, per esempio. Quindi gestì anche la ricostruzione del convento di Hereford quando fu distrutta dalla guerra. Quindi sicuramente una donna che non fu soltanto una studiosa, ma che mise il suo studio a servizio della comunità, perché lo studio fine a se stesso poi non serve a nulla, e del resto noi con la Scuola delle Donne il nostro studio lo mettiamo a servizio della comunità, perché tutto quello che esce in classe viene poi pubblicato. Quindi stiamo rendendo anche un servizio, perciò stiamo facendo del nostro dovere un piacere. Lei, appunto, Elisabetta, fu anche una manager, un po' mi viene in mente anche Teresa d'Avila, anche lei fu una manager, non fu soltanto una spirituale. E sicuramente nel desiderio di Anna Maria von Schurmann, la sua referente per lettera, di aiutare a ricreare una comunità cristiana delle origini, c'è questo stesso desiderio di Elisabeth proprio di vivere in comunità autonome, autosufficienti, improntate all'amore, alla sorellanza, alla condivisione. E questo ci risuona, in questo momento ci risuona tantissimo. Noi avremmo molto bisogno di donne così che ispirino le nostre gesta, le nostre decisioni. E passiamo a Cristina di Svezia. Cristina non ebbe a che fare direttamente né con Elisabeth né con Anna Maria, ma fu collegata a loro da, come sappiamo, tramite Cartesio. Cristina nacque a Stoccolma nel 1626, quindi aveva 8 anni più di, fatemi controllare, 8 anni più di Elisabeth, perché mi sembra che sì, 18-26, quindi sì, 8 anni più di Elisabeth. Meno di Elisabeth, sorry. Sì, 8 anni meno di Elisabeth. Il padre di Cristina fu Gustavo Adolfo il Grande. È importante questo, normalmente a me parlare dei re non interessa, ma in questo caso è importante perché Cristina fu quello che fu grazie al fatto che il padre predispose che lei venisse educata come un ragazzo, come un principe. Suo padre fu quello che gettò in Svezia le basi per farne non solo un paese moderno, ma perché la Svezia avesse il predominio su tutta l'area baltica, perché la Svezia diventasse il paese ricco che è. Quando nacque Cristina, lei aveva un'ipertrofia clitoridea, quindi per le prime 24 ore fu scambiata per un maschio e il padre era felicissimo perché finalmente aveva avuto l'erede che desiderava. Poi il giorno dopo invece si scoprì che era una femmina, ma il padre stabilì proprio in quel momento che venisse comunque educata come un principe per poterle poi lasciare nelle mani il governo. Mi fa un po' ridere, non so se qualcuno di voi ha visto il film su Cristina di Svezia interpretato da Greta Garbo. Mi fa un po' ridere perché Greta Garbo è bellissima, mentre Cristina di Svezia era bruttarola. Era piccola, aveva la pelle bitorzoluta, aveva dei lineamenti proprio brutti e in più si era abituata fin da piccola a vestirsi da maschio, per cui era tutt'altro che affascinante. Quindi Greta Garbo la interpretò perché erano tutte e due svedesi, ma non ci può essere, a mio avviso, una persona più diversa dalla reale, da quella che fu realmente Cristina di Svezia, di Greta Garbo. Allora, dicevamo, il padre, Gustavo, predispose tutto quanto per la sua successione nel caso fosse morto in battaglia. Quindi lasciò detto che la figlioletta venisse educata come un principe. Di fatto Cristina, quando sale al trono, perché ci salirà, sale al trono come re di Svezia, non come regina. Quindi proprio lei, per il tempo che rimase sul trono, esercitò il ruolo di re, di monarca. Monarca, una parola bella, mi piace perché non ha né maschile né femminile. Quindi praticamente a 4 anni, ecco, lui, il padre predispose che fosse istituito un consiglio di reggenza per il governo dello Stato fino a che la figlia avesse raggiunto la maggiore età. La ragazzina fu ammessa, divenne re a 6 anni e a 14 fu ammessa già al consiglio dei reggenti e a 18 diventa re a tutti gli effetti. La sua educazione viene affidata alle cure della zia Caterina di Svezia perché sembra che la madre fosse disturbata, che avesse dei problemi psichici. Di fatto, uno dei motivi per cui Cristina si vestirà da maschio e si comporterà da maschio per tutta la vita sembra fosse anche un'avversione nei confronti di questa mamma. Però questo non l'ho indagato, sinceramente non mi interessa. Ecco, Cristina studiava anche 10 ore al giorno per prepararsi al suo compito. Era in grado di parlare 7 lingue, discuteva di politica, filosofia e religione e lo studio non le pesava. Anzi, lei era entusiasta di imparare. La sua istruzione, ovviamente, era nelle lingue classiche, in più scienza, storia e principi religiosi luterani, perché il padre aveva lasciato detto che venisse educata nei sani principi religiosi luterani, forse anche fin troppo sani, perché poi vedremo che Cristina si farà, diventerà cattolica. Ma c'è un motivo, che non c'entra niente con la religione. A 18 anni prende nelle sue mani il governo del paese. E lo governa molto bene in quei 10 anni. Lei scrive di sé nella sua biografia che non sopporta di essere sottomessa a un uomo e scrisse letteralmente: il matrimonio genera una subordinazione alla quale io non sopporto di sottostare. E ancora scrive: non sopporto l'idea di essere usata da un uomo nel modo in cui un contadino usa i suoi campi. Quindi direi che è una femminista assolutamente ante litteram. Scusate un attimo, che mi sa che c'è un messaggio di Cristina. Ah no, no, niente da fare. Quindi, cioè, queste sono frasi che non hanno niente a che vedere con la religione, che sono frasi di una donna che vuole vivere la sua vita in modo emancipato. Si veste da uomo con una giacca lunga sopra la gonna corta, calze e scarpe da uomo, capelli lunghi sulle spalle, senza acconciature. Lei li lascia sciolti. L'hanno abituata fin da piccola a cavalcare, lei cavalca, fuma la pipa liberamente davanti a tutti, si alza prestissimo la mattina a leggere prima di dedicarsi agli impegni politici della giornata. Ecco. Aveva ricevuto un'ottima educazione, tanto anche che anche lei viene definita la Minerva del Nord. Quindi ci sono ben due Minerve nel 1600, Anna Maria van Schuurman e Cristina di Svezia. I suoi interessi però in questo caso erano rivolti soprattutto alle lettere, alle arti, e alle arti, ma anche alla filosofia, ed è per questo che anche lei invita Cartesio alla sua corte. Poi ci sono due scuole di pensiero. Alcuni dicono, sostengono, alcune fonti sostengono che lei andava d'accordissimo con questo maestro ed essendo Cartesio cattolico, lei si fece cattolica perché amava questo maestro. Altre invece fonti dicono che lei in realtà non ci andò molto d'accordo, proprio per nulla. Perché lei era una donna libera, sostanzialmente era una donna indipendente, quindi andava d'accordo col cattolicesimo veramente come, beh, in questo momento non mi viene in mente qualcosa di opposto, però molto poco. Io mi sento più propensa a credere la seconda cosa. Tra le altre cose che fece lei da regnante, da monarca, concesse privilegi e maggiori autonomie alle città. Favorì il commercio, l'artigianato, l'estrazione mineraria, incoraggiò con ogni mezzo la scienza e la letteratura e fondò il primo quotidiano svedese che è tuttora operativo. Quindi compì delle opere importanti e sotto i suoi 10 anni di regno la Svezia terminò di diventare lo stato principale del Nord Europa, è uno dei più ricchi d'Europa. Tra l'altro riuscì a firmare la pace nella guerra che aveva iniziato suo padre e la firmò in modo completamente vantaggioso per la Svezia, quindi fu anche un'acuta stratega e riuscì finalmente a portare la pace dopo tanti anni di guerra. Ma cosa succede praticamente? Che i consiglieri e il popolo cominciano a a insistere per la discendenza, che vogliono che lei si sposi, vogliono che garantisca un erede al trono. Allora, ufficialmente il motivo per cui lei lascia il trono è che gli impegni della politica la distolgono dallo studio e dall'arte alla quale lei si vuole dedicare. La mia opinione è che in realtà lei non avesse scelta, perché o si sposava oppure lasciava, abdicava. O si sarebbe dovuta sposare o avrebbe dovuto abdicare. Non aveva altra scelta. È vero che Elisabetta prima d'Inghilterra riuscì a non sposarsi, ma Elisabetta prima d'Inghilterra, ricordatevi, si autoproclamò capo della Chiesa, oltre che dello Stato, perché creò la Chiesa anglicana, quindi nessuno poteva più dirle cosa fare. Questo invece in Svezia, con il luteranismo stretto, rigido che esisteva, non era possibile. Sicuramente Cristina aveva uno stile di vita che esulava dal dogma luterano, che invece era abbastanza stretto, no? Quindi presupponeva una vita limitata all'essenziale, mentre Cristina amava, era una accanita collezionista, amava circondarsi di opere d'arte, amava il teatro, amava comprare libri, quindi spendeva tantissimo per acquistare tutto quello che poteva essere arte e cultura, e quindi diciamo che un po' per questo motivo, un po' perché decise di non sposarsi, sta di fatto che abdicò in favore del cugino dopo 10 anni. Si decise di farsi cattolica, pensando, forse visto come viveva la corte del Papa a Roma, pensò che la religione cattolica lasciasse più ampie possibilità di spaziare nel campo della cultura, che fosse meno rigida della religione luterana. Quindi si fa battezzare e parte per andare a Roma, e con una rendita garantita dallo stesso trono svedese. Quindi vive grazie alla rendita che le garantisce il trono, anche se poi questa rendita sarà ballerina, ci saranno dei momenti che arriva, dei momenti che non arriva, e per tutta la sua vita Cristina avrà problemi finanziari, perché questa rendita arriva e non arriva, e lei non smise mai di comprare libri, pergamene, quadri, quindi di vivere una vita principesca realmente, tra virgolette. Arriva a Roma, il Papa la accoglie a braccia aperte, quel furbacchione del Papa, che mi sembra che cambino 3 o 4 papi durante la permanenza. Cristina resterà a Roma 30 anni, quindi durante la sua permanenza 3 o 4. Comunque il primo Papa in ordine di apparizione, quando Cristina arriva a Roma, addirittura le riserva un palazzo, che è il Palazzo Farnese, e la accoglie a braccia aperte perché lui è convinto di poterla manipolare, cioè di poter proclamare, di poter fare a Cristina una pubblica abiura alla religione luterana e una manifestazione pubblica di rispetto verso la Chiesa cattolica. Quindi chiaramente il Papa voleva usarla per i suoi scopi, che erano scopi di propaganda, ma guardate un po' che novità. Cristina invece si guarda bene dal fare tutto questo, cioè casca proprio male, povero Papa, perché si scontra con una volontà ferrea. Cristina è una donna troppo libera, troppo indipendente per dichiarare fedeltà o manifestare pubblico rispetto a chi che sia. Quindi anche se rimase comunque ufficialmente una cattolica devota per tutta la sua vita, lei non giura obbedienza proprio a nessuno e non abiura al luteranesimo, perché questo avrebbe potuto provocarle ulteriori problemi diplomatici con una corte che già faticava a versarle il suo soldo mensile, la pensione a cui aveva diritto. Dopo un po' che è a Roma, decide di tornare sulla scena politica europea, perché è un animale politico Cristina, quindi cerca prima di prendersi il trono di Napoli facendosi aiutare dal re di Francia, al quale promette di lasciarlo dopo la sua morte, poi cerca di riprendersi il trono svedese, poi cerca di prendersi il trono polacco, ma non ci riesce, perché è una donna che non si vuole sposare, nonostante abbia regnato bene. Nessuno la vuole come regnante, quindi alla fine se ne ritorna a Roma dopo aver girovagato un po' per le corti europee, e a Roma praticamente va ad abitare a Palazzo Riario, oggi Palazzo Corsini, dove accumula una collezione di dipinti della scuola veneta, oltre a 2000 libri, 5000 manoscritti, che oggi sono parte della Biblioteca Vaticana. È per questo che Cristina di Svezia è sepolta in Vaticano, come Matilde di Canossa e un'altra donna, sono in tutto tre. Grazie a questo lascito, che in realtà non fu un lascito, ma fu un, lo comprarono per un boccone di pane alla sua morte, il Vaticano comprò per un valore irrisorio rispetto al valore che realmente aveva tutta questa collezione. In più fonda l'Accademia Letteraria di Riario, che oggi è l'Accademia dei Lincei, quindi che sicuramente di cui avrete sentito parlare perché è famosissima, quindi tutto ciò che fece Cristina sopravvisse a lei, fondò veramente delle istituzioni culturali che ancora oggi vivono. Raccolse intorno a sé musicisti, letterati, poeti e diversi cardinali, tra cui uno in particolare, Decio Azzolini, che divenne in qualche modo il suo amico particolare, il suo confidente, il suo segretario, colui che l'aiutava a tenere ordine in quella baraonda di palazzo dove lei oltretutto riceveva anche donne di malaffare, attrici, donne che venivano disonorate, lei dava alloggio a tutte le donne che in qualche modo finivano sulla strada, che fosse o no colpa loro, a Cristina non interessava nulla, quindi attrici, prostitute, lei le alloggiava e le aiutava. Fonda, crea un teatro, per il quale ovviamente il Papa poi la riprenderà, perché non era d'accordo il Papa, a Tor di Nona, il teatro pubblico a Tor di Nona. Quindi il Papa poi glielo fece chiudere, considerato una cosa disdicevole, non lo stesso Papa che l'aveva accolta, e mi sembra che nel frattempo ne fosse il terzo che era stato nominato, mentre durante i 30 anni, diciamo, in cui Cristina rimase a Roma. E quindi lei cosa fece? Non si fece smuovere di una piega e creò il teatro in casa sua, cioè lei faceva, organizzava gli spettacoli, invitava attori, attrici, letterati poeti e poete nella sua casa e lì creava il teatro. C'è da chiedersi come mai non finì sotto Inquisizione, perché 1600 siamo in piena Inquisizione e lei sicuramente viveva una vita molto libera, una vita per cui altre donne per molto meno sono state mandate a rogo. Ma c'è da dire una cosa, che l'Inquisizione non arrivò mai a Roma, anche perché altrimenti probabilmente i due terzi delle donne romane avrebbero dovuto venire sul rogo, incluse le varie concubine dei papi. L'Inquisizione è un fatto che ha preso piega nel nord Europa e nel nord Italia. In Italia l'Inquisizione, le streghe furono bruciate solo al nord. Se ci fate caso, i nomi dei paesi dove furono organizzati i roghi di streghe, Priora, Crove, sono tutti quanti al nord. Uno solo mi sembra in centro Italia. Per questo motivo lei probabilmente la scampò, perché altrimenti, secondo me, la sua vita e le sue decisioni avrebbero dovuto portarla dritta e filata nelle maglie, nelle grinfie dell'Inquisizione. Ecco, non smise mai di comprare, di circondarsi di libri, quadri e di intellettuali nella sua corte, nonostante i problemi economici. Si fece, aiutò fuoriusciti ebrei che erano stati scomunicati dal Papa, diede alloggio nella sua casa e addirittura si fece portavoce di un gruppo di cardinali che erano favorevoli alla riforma della Chiesa. Quindi veramente un miracolo che non sia finita sul rogo questa donna. Creò un orto botanico nel giardino della sua residenza che tuttora esiste. L'orto botanico di Roma fu creato da lei 300-400 anni fa. Aprì, ecco, no, questo ve l'ho già detto, ecco, tra i suoi protetti che si esibivano quotidianamente nella sua casa c'erano Scarlatti e Corelli e Angelica Quadrelli, una sua protetta, una musicista sua protetta che rimase poi sua amica e confidente per tutta la vita. Chiaramente Cristina poi è stata in odore di omosessualità, ma non c'è nessuna prova in realtà che non abbia vissuto una vita più che casta. Quindi è possibile che questa sua malformazione, questa sua ipertrofia clitoridea le rendesse impossibile o forse sgradito avere qualunque tipo di rapporto sessuale, perché anche dalle sue lettere, nella sua biografia, non trapela nulla di tutto ciò. Quindi può essere benissimo che lei abbia vissuto in maniera casta perché non è riuscita a gestire questa malformazione. Io, tra l'altro, posso anche pensare che a livello ormonale una questione fisica di questo genere possa anche provocare così un'alterazione anche della libido, anche dei desideri. Questo non lo so, ma posso immaginare di sì, perché probabilmente c'è una produzione di ormoni maschili, questo poi dovrei verificarlo, quindi prendetelo con grano salis, proprio non lo so, ma può essere anche che dia luogo a una produzione di ormoni maschili che in qualche modo interferiscono con la vita sessuale di una donna. Allora, a un certo punto della sua vita fu guerra aperta con il Vaticano. Nonostante questo, quando morì di un'infezione acuta alla pelle a 61 anni e contro il suo esplicito volere testamentario, lei lasciò scritto che non voleva in nessun modo né essere esposta né essere imbalsamata, ma nonostante questo, il Papa di turno, che credo fosse il quarto, la fece esporre vestita riccamente, la fece imbalsamare ed esporre vestita riccamente perché potesse essere contemplata a Palazzo Riario. Questo ovviamente faceva il gioco del Papa, che in quel momento stava cercando di accaparrarsi le ricche collezioni di libri, di pergamene, di quadri che sono finiti tutti quanti nella Biblioteca Vaticana e nelle collezioni vaticane per due soldi, come abbiamo detto, quindi in qualche modo stava cercando di salvare le apparenze. Ecco. Fu chiusa in tre differenti sarcofagi e fu sepolta nelle grotte vaticane.